Tutto chiaro? Mettiti alla prova. A. Ascolta il dialogo. Ma sei tu! Non ci crederai. Un mese fa abbiamo vinto alla lotteria. Complimenti. Ancora non ci credo. Abbiamo comprato il biglietto mentre andavamo al mare. Ci siamo fermati all'autogrill e mentre Gianni faceva il pieno, io sono entrata nel negozio. Ho preso dei biscotti e quando li ho pagati, la commessa non aveva il resto e mi ha proposto di acquistare un biglietto della lotteria da 3 euro. Che fortuna!